Mi soffoco con il cuscino. Mi sveglio la notte e mi soffoco con il cuscino. Quellino fortissimamente ed inesorabilmente cancella a toccarmi fortissimamente. Insurrezione. Insurrezione fortissimamente. Yeah.